Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Pippa Sola, che c'hai i piedoni, ti devi levare le scarpe. Scusami, scusatemi, scusa. No, è così, no, ho spiegato le regole, d'accordo? Levati di ciocco. Comunque sbagliate da secondare, avrebbe bisogno di un contenimento. Nel DSM 4 c'è proprio un capitolo sul disturbo ossessivo compulsivo. Prego. Pozzettina, un sicchetta mai, parla anche quando dorme, parla. Tocca bella, dopo si rifà il letto. Ho liberato metà dell'armadio. Le stampelle di legno sono per le cose d'inverno, quelle di seta metti le cose d'estate, le altre le gomme, i pantaloni. Qui hai metà del comò per le tue belle cremine, i tuoi profumini, se hai bisogno di un bicchiere. Qualcuno avrà già riconosciuto di cosa si parla, perché da qualche giorno nelle sale cinematografiche, ma se ne sta facendo una grandissima letteratura, dell'ultimo film di Paolo Virzì, La pazza gioia, con Valeria Bruni Tedeschi e Michela Ramazzotti. Ora, questa non è una trasmissione che normalmente fa critica cinematografica, però oggi invece mi sono voluto porre una domanda che sarà senz'altro interessante, utile, divertente per chi ha visto il film e interessante per chi andrà a vedere questo film. Questo è un film molto particolare, un film con una chiave ironica, nonostante la tragicità del tema che tratta, che è quello appunto del disagio psichiatrico. Le protagoniste sono due donne, un film cucito attorno a due grandi protagoniste, antitetiche tra loro, l'avrete già visto negli spot, nei trailer, farò di tutto per non fare spoiler malefici in questo film, ma quello che tutti si domandano, quelli che hanno visto questo film, al di là del valore cinematografico, dice, ma cosa esattamente avevano queste due donne? Cosa hanno le due donne? Quale tipo di disagio? In quale contesto sono? Perché si vedono le donne stare in dei luoghi, prima in una casale in campagna, poi in una villa in cui c'è un giardino, poi in un luogo che è un vero e proprio carcere, entrare e uscire da questi luoghi in cui fanno comunque dei trattamenti per il loro disagio psichiatrico. Citano continuamente dei farmaci, sono alla ricerca di farmaci, si parla di terapie, si parla di contenimento, si parla di difficoltà di rapporti familiari. Ecco, tutto questo ha un nome scientifico, ha una riconoscibilità. Quindi oggi con due ospiti, che l'uno è esperto in cinema, quindi ci potrà dare il contesto e i riferimenti e le ispirazioni, l'altro esperto in psichiatria, parleremo di questo film. Vi presento subito gli ospiti. Uno è Beppe Neri. Giuseppe Neri, buongiorno. È stato tantissime volte. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Gianluca. Ospite della nostra missione, è un neuropsichiatra, è past president della Società Neurologi Ospedalieri Italiani, quindi ha visto il film per noi e ha pronta, diciamo, la chiave di lettura dal punto di vista di uno psichiatra di quelli che sono i problemi che si trattano in questo film. L'altro è l'immarcescibile Giuseppe Sanson. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Che è un regista, insieme a lui abbiamo fatto un'analisi della società attraverso il cinema e con lui cerchiamo di vedere quanto questo cinema riesce a dare uno spaccato realistico di un certo tipo di società, che è la società degli umani neurotipici, quelli che apparentemente perlomeno non hanno problemi tali per cui abbia loro messo gli occhi addosso, le mani addosso, qualcosa che abbia a che fare comunque con l'apparato clinico ospedaliero, che guardano con sospetto naturalmente o con attenzione o anche con un sincero senso di partecipazione quella fetta di umanità che in realtà si trova nel centro di raccolta della diversità psichiatrica, che è qualcosa che comunque vale la pena di approfondire. A tra poco. 800240024 per quelli che hanno già visto il film, per quelli che vorranno vederlo sapendone qualcosa in più. SMAU Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Guardate indietro, è pericoloso! Chiediamo un passaggio! Facciamo l'autostop! Non ci monta gli asci! No, non è consentito! Io non ho mai fatto l'autostop! Io ho paura dell'autostop! Oh, c'è un autobus! C'è un autobus! Venite! Ma venite! È il 63, venite! Le le due recluse, le due volontarie che facevano un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, però in qualche maniera avevano accettato un piano terapeutico, perché entrambe erano sottoposte comunque a giudizio penale, avevano compiuto dei reati, stavano in un posto anche bello e lì cercavano in qualche maniera di curarsi, o perlomeno di normalizzarsi. A un certo punto sono portate da un desiderio di fuga. Questo è quello che è dato di sapere anche chi soltanto ha visto i trailer. Allora, Giuseppe Sansone, inquadriamo innanzitutto il film. Entra in un filone ben particolare, l'ambientazione della Toscana è il luogo di elezione di nascita di Virzì, infatti gli viene molto bene. I luoghi sono luoghi ameni, ma non è la Toscana raccontata in quei film melensi e zuccherosi, in cui c'è il bel paese toscano che viene acquistato come sottofondo, come set per stranieri desiderosi di amenità, ma è una Toscana che mostra appunto nella bellezza del paesaggio alcuni aspetti problematici. Sì, Virzì prosegue nella sua rivisitazione piena dalla commedia all'italiana, dal sorpasso, dal mondo di Risi che ricerca di recitare e rivivificare continuamente. In fondo le due protagoniste in questa sorta di road movie toscano su queste decappottabili in fondo citano anche il sorpasso. La Valeria Bruni Tedeschi è una logorroica vulcanica che ha un suo saper vivere di classe, che cerca di scardinare la depressione appunto di Michela Ramazzotti e portarla in questo ritrascinarla in una sorta di vita, in una spasmodica ricerca della felicità, che mostra uno spaccato di un'Italia in cui i poveri fanno un po' ribrezzo come i ricchi, se vogliamo, insomma, sia l'avvocato suo ex marito in questa villa dell'Argentario, lei lo depreda, non facciamo spoiler, però insomma è uguale in fondo al papponesco Rondelli che incontra sulla sua strada, cioè e oscilla, fa una sorta di sua strana lotta di classe fra il mondo dei ricchi e quello dei poveri. C'è una forma di spaccato di com'è l'Italia oggi, di cosa voglia essere la mira della felicità, è dato dal film, secondo me. Allora, invece Giuseppe Neri ha visto per noi questo film perché rispondeva alla mia domanda ben precisa. Innanzitutto vediamo, al di là dei paesaggi della Toscana che in parte ha citato Giuseppe Sansone, ci sono dei luoghi ben precisi, luoghi che hanno delle sigle, dei nomi. Quali sono i luoghi in cui si svolge questa storia? Devo dire che Virzì ha un'accuratezza calligrafica nel proporre al grande pubblico quello che poi i tecnici, i professionisti chiamano i vari setting, se vuoi, assistenziali. Allora c'è la residenza protetta, che è questa villa che porta il nome della famiglia di Valeria Bruni Tedeschi, che oggi per alcuni aspetti si chiamerebbe, con quelle acrobazie lessicali in cui noi italiani siamo molto bravi, REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che vuol dire che è un luogo di cura, però con delle limitazioni alla libertà personale, perché è riservato a persone che hanno dei problemi psichiatrici, ma che sono state anche sottoposte a un giudizio passato in giudicato riguardo dei reati, soprattutto di una certa importanza. E quello che si dice spesso nel film, loro hanno accettato di seguire un percorso terapeutico. Non avevano alternative, perché l'alternativa sarebbe stata, e questo è tutto un problema legato alla legislazione e alle normative vigenti, il carcere ordinario. L'altro aspetto è che queste residenze particolari sono i sostituti. Il film è situato a fine degli anni 2008, 2009, 2010, quindi quando ancora in Italia esistevano queste strutture particolari che una volta si chiamavano manicomi criminali, poi sono chiamati ospedali psichiatrici giudiziari, OPG, è un termine che ricorre nel film, che dall'anno scorso sono quasi tutti chiusi, residuali. Un paio sono ancora aperti con pochi pazienti, però sono stati sostituiti sul territorio da queste residenze. E questo è fatto molto bene con i suoi personaggi. Io penso, ho letto, ma da quello che ho visto è probabile che abbiano collaborato al film anche delle persone con disagio psichico, sì, reale. Molti degli ospiti di queste strutture sono curati nei dettagli. Erano chiaramente dei malati psichiatrici. L'eterogeneità del gruppo, l'equipe in cui le varie componenti collaborano ma anche confliggono. Il responsabile dei servizi sociali che è iperlegalitario e che vuole chiamare il giudice di sorveglianza a ogni circostanza. I medici che si dedicano a questi pazienti, io ne conosco dei colleghi psichiatri che vivono quasi tutta la giornata in questa residenza con i pazienti, che vogliono tutelare il paziente ed evitargli ulteriori limitazioni della libertà e quindi sono più aperti. Perché sono sempre sul filo del rasoio, nel senso, se sgarrano un po' da quello che è il protocollo che si sono impegnati a osservare, è facile lo facciano, perché è tutto legato al dosaggio di un farmaco, a un momento particolare, così immediatamente si ritorna nel girone precedente che assomiglia sempre più a un carcere. Esatto, nell'epoca in cui è situato il film l'alternativa era l'ospedale psichiatrico giudiziario, che era una struttura sostanzialmente più vicino al carcere che non al luogo di cura. Infatti si vede a un certo punto che la legano, la portano, c'è un protocollo molto duro, la legano al lettino. Quelle sono tutte le misure di contenimento che anche in condizioni normali, al di fuori degli aspetti giudiziari, vengono utilizzati per i trattamenti sanitari obbligatori, che sono in base alla legge quelli in cui il paziente è oggetto di cure, tra virgolette, contro la sua volontà. Beh, aveva fatto un atto di violenza in quel caso, certo. molto aperto. 800 24 00 24, vi stiamo dando una metalettura, ma tecnica, scientifica, radicale, di un film che non è soltanto una commediola divertente, interessante, molto ben fatta e molto ben profonda, molto ben tracciata, ma è un film che racconta una realtà. È un film che probabilmente non tutti hanno bene a fuoco quanto sia estremamente realistico nei luoghi che rappresenta e nelle patologie che rappresenta, nel essere borderline dei suoi protagonisti. Quindi chi ha un'esperienza simile a quello che stiamo descrivendo e raccontando, ci piacerebbe che la trasferisse, che la raccontasse, o chi ha visto il film ci piacerebbe che dicesse quelle che possono essere le sue impressioni. Aspettatemi qui, vado a vedere, c'è un posticino per noi. Aspetta. Sto stronzo ci ha preso per due puttane, ci ha preso. Ma no, è gentile. Sì, gentile, guarda qui. Analcolico, Anal Vision 3D. Comunque non dovresti frugare nelle cose degli altri, eh? Ma cosa stai facendo? Ma cosa fai? Ma sai guidare? Cosa fai? Zitto. No, la macchina no! 800 24 00 24, quello che vi facciamo ascoltare fa parte dei trailer del film, quindi qualcosa che legittimamente chiunque può ascoltare. È il primo dialogo in cui si delineano i caratteri delle due protagoniste, ma in attesa fra un secondo chiederò a Giuseppe Neri, il neuropsichiatra, esattamente da questo dialogo se è possibile già cominciare a individuare quali sono i quadri patologici. Però volevo prima parlare un attimo con Giuseppe Sanson. Scrive un ascoltatore: Virzì è l'erede del neorealismo, il più grande regista italiano contemporaneo. Sei d'accordo, sei un erede del neorealismo? Beh, neorealismo direi di no, lui è un prosecutore della commedia. Sono attori di grandissimo calibro qua, non lavora con gente comune. No, anzi, rispetto a, soprattutto alla media italiana, c'è una recitazione molto dettagliata. Valeria Bruni Tedeschi forse ha davvero messo qualcosa di suo in questo personaggio, cioè però è puntualmente straniata a questa... Cioè matta vera, diciamo così. Detto... No, questo non lo so, però di sicuro c'è una forza mimetica molto affascinante, non superficiale nel personaggio, cioè, quindi c'è un lavoro davvero sul personaggio e sulla recitazione, e l'eredità è quella della commedia velenosa, del ritratto di costume. Questa non è più l'Italia del boom, non è più l'Italia degli anni 70, è appunto un'Italia feroce in cui il maschile, qui abbiamo sentito una scena in cui c'è questa sorta di pornomane con coda, sì, da Toscana. Sì, le carica pensando di fare una mucchiata, le porta in un albergaccio, e la Ramazzotti, che è più realistica, vede, c'ha le cassette porno, anal porno, dice ma questo ci porta chissà dove. La Bruni Tedeschi non aveva capito niente, pensava che era una festa. Questo vortice di svampita mondanità, un po' una specie di Bette Davis, anche di che fine ha fatto Baby Jane quando entra col vestitino, no? Questo ricordo di fasto, di un fasto che fu dell'alta società di cui ha fatto parte e che in fondo anche l'ha annoiata. E invece il maschile ne esce malissimo in questo film. I ritratti maschili sono spesso beceri, giustamente, che loro in questo road movie incontrano, mostrano appunto la corda di una ferocia, di un'aggressività notevole, che loro in maniera un po' candida fungono da cartina al tornasole per evidenziare. Rita, al telefono abbiamo Rita, 800 24 00 24. Mi piacerebbe avere dei contributi, la parte che ci ascolta, domande oppure valutazioni rispetto a chi ha visto il film. Rita, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire che, premesso che Virzì per me è un intoccabile, nessuno è intoccabile per noi, manco il Padre Eterno, quindi le piace molto. Insomma, è il mio modo di esprimere il mio apprezzamento nei riguardi di questo grande regista, e che comunque le attrici, le due protagoniste, sono veramente brave. Devo dire che, alla luce della mia esperienza come anni di lavoro nei carceri e contatti con OPG, case famiglie, eccetera, devo dire che ho trovato il film un pochino edulcorato su, per quanto riguarda invece la realtà, cioè la realtà che perlomeno realtà che ho incontrato. Cioè gli operatori sono tutti buoni, bravi, carini, motivati, non c'è quello che mena o quello che disprezza, come vediamo poi nei filmati che mettono nelle telecamere nascoste. Questo. Mi piace. ripeto, quella che è la mia esperienza umile, e non vuole essere un'esperienza universale, per l'amor di Dio, però nella mia esperienza purtroppo, ahimè, è molto diversa la realtà, cioè col cavolo che vedi l'assistente così motivato, così accorato, così preso dalla situazione, questa atmosfera idilliaca di giardino con i fiori, le farfalle, io non l'ho incontrata. Ecco, mi riferisco a situazioni carcerarie note, mi riferisco a situazioni di case famiglia per bambini, addirittura nella centralissima e tra virgolette civilissima Milano, centralissima Milano, Allora, resti questo un attimo, Rita, sì. La tengo in ascolto, devo fermare un attimo perché dobbiamo dare la linea. Però vorrei farla parlare con Beppe Neri. Beppe Neri, che conosce questa realtà, la conosce da sempre perché ha visitato tantissimi posti del genere e poi svolge questa professione da un numero enorme di anni. Vorrei confrontarmi con lei proprio su questo aspetto, che era un po' la piccola eccezione che ho fatto io parlando con Giuseppe, che è un amico ormai di tanti anni. Con Giuseppe la mia impressione è che è bellissimo, un film che mi ha entusiasmato, che poi sia stato un po' dolce sulla realtà di questi luoghi. Vediamo un po' chi dei due mi darà delle risposte esaudienti. Resti in linea fra un istante. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, stiamo facendo un'analisi del film La pazza gioia di Paolo Virzì, l'ultimo film di Paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi e Michela Ramazzotti. Giuseppe Neri, neuropsichiatra, che è in studio con me. Innanzitutto vediamo, prima di rispondere all'ascoltatrice Rita, che conosce questa realtà tra carcere e luogo di cura e detenzione di pazienti psichiatrici, cosa che ancora non abbiamo fatto, ho promesso all'inizio, mi fai un quadro delle due protagoniste, cosa hanno loro realmente? Allora, non si può fare, come dicono i francesi, la diagnostica. No, non è la diagnostica, per capire che hanno. Tanto al chilo, però grossolanamente è fatto molto bene il personaggio di Valeria Bruni Tedeschi, che sicuramente lo si vede, è logorroica, incontenibile, intrusiva, parla sempre e rimanda al modello del disturbo maniaco depressivo bipolare, in cui questo personaggio sembrerebbe essere prevalentemente monopolare A, subeccitato, in un contesto sociale, culturale, che ha favorito, in una condizione di privilegio, di casta, di ceto, di condizioni economiche, lo sviluppo di questa situazione. E anche mascherato finché poteva permettersi. All'interno di un terzo contesto, finché non si scopre la situazione in cui lei dissipa buona parte del patrimonio di famiglia per questo innamoramento folle per un personaggio assolutamente improponibile, un delinquente, eccetera, eccetera. Questo può essere, diciamo, patologico. Questa è la fotografia di tante persone che nella mia carriera mi è toccato di incontrare, vedere e dietro il nome, dietro la faccia, dietro il personaggio di Valeria Bruni Tedeschi, io posso vedere tante pazienti che mi è capitato di incontrare. Secondo, molto interessante, molto aderente alla realtà concreta di oggi, quello di Michela Ramazzotti, che è una condizione in cui coesistono due elementi. Questa è la mia ricostruzione plausibile e criticabilissima. Da un lato una storia di abuso di sostanze, e verosimilmente lancio questa ipotesi. Lei è una cubista in una discoteca. E probabilmente per tenersi su, per mantenere certi standard prestazionali anche di attivazione, faceva uso di sostanze eccitanti, e molte volte nelle persone giovani di quella fascia di età vediamo che questo scatena, fa da fattore scatenante per fare emergere una condizione di disturbo psichiatrico che forse sarebbe emerso più tardivamente. È ragionevole presumere che questa donna, anche rispetto alla gravidanza, al parto, alla condizione di madre nubile col figlio non riconosciuto, abbia fatto una depressione maggiore, che è una condizione dal punto di vista della gravità della patologia molto seria, che può portare anche a gesti autolesivi. Infatti era il tentativo di suicidio che coinvolge anche il bambino, e che poi entra in quella spirale di cui poi vediamo gli sviluppi per pazienti che da anni sono dentro questo tipo di condizione, sia per Valeria Bruni Tedeschi sia per Michela Ramazzotti, che è la farmacofilia. Queste due donne vanno cercando farmaci dovunque, con le ricette e senza ricette, negli stipetti dei bagni, delle case che abitano e dentro i necessari di tutti quelli cui hanno accesso. Hanno una conoscenza da farmacista del farmaco, sanno tutto. Il paziente che ha storie di anni di patologia stabilisce un rapporto con i farmaci molto stretto, e in alcune condizioni c'è un rapporto proprio, in cui noi anche medici abbiamo la nostra responsabilità, di legame stretto che arriva quasi alla dipendenza. Giuseppe Sansonna, Anche tu hai sentito l'ascoltatrice Rita, dice la situazione è diversa. Tu, oltre a essere regista cinematografico, hai anche un'esperienza di luoghi come questi. Dal 2009 gestisco un laboratorio di scrittura cinematografica presso un DSM romano, il Mazzacurati dell'ASL Romandì, e mi capita appunto di verificare come lavorare sul linguaggio cinematografico raccontare delle storie anche in terza persona possa essere molto d'aiuto anche come strumento per orientarsi nell'esistenza. No, è una realtà molto bella questa, ma non credo che sia l'unica, questo volevo dire rispetto all'ascoltatrice. Ci sono delle realtà in cui gli operatori sono davvero coinvolti emotivamente in quello che fanno e hanno una piena adesione, e non siamo nell'Eden in Italia, però non siamo neanche in un inferno monocolore in cui tutto è cupo e triste. Cioè esistono delle realtà emotive in cui chi fa un lavoro poi aderisce, insomma, a quello. Ecco, che Rita, le ridò un secondo la battuta, così ripone la domanda più precisa a Giuseppe Neri. Lei dice: io ho fatto a volontaria tanto tempo in queste strutture e vi posso dire che anche al centro di Milano non è che siano rose e fiori, qui è un clima sì molto idilliaco, nella tragedia dei problemi che hanno diciamo gli ospiti, gli operatori, ognuno li vorrebbe avere come vicini di casa, come parenti, come medici. Sì. Sì e basta, dice. No, non ho capito. No, sì, no, ecco, questa è la mia esperienza. Sì, e sintetizzi nuovamente la domanda, se le risponde Beppe Neri. Non ho capito. Va bene, allora resti in attesa. Giuseppe. No, io voglio dare ragione a Rita su questo. La villa sui Colli Toscani, con quell'aspetto bucolico idilliaco, è una condizione atipica. Far pensare a chi va al cinema che i pazienti siano assistiti in contesti di quel tipo, come maggioranza delle circostanze, come quadro prevalente, secondo me non è corretto. Ecco, non è così. Sarebbe. È un quadro idilliaco che serviva alla narrazione cinematografica, ma che non corrisponde, secondo me, alla realtà. La maggior parte delle case famiglia sono più o meno in luoghi ameni, spesso in grandi fabbricati dei centri urbani, con una situazione reale che è diversa. Sull'impegno dei singoli, dopo quasi 40 anni di lavoro nella sanità pubblica, posso dire è molto variegato. Io conosco però personalmente degli operatori che sono medici, non medici, infermieri, che soprattutto quelli che lavorano nelle case famiglie, nelle residenze assistenziali, nei luoghi, tra virgolette, di questa cosa che non si può citare perché sarebbe un tabù, cronicità. Perché il problema di fondo, che poi finisce anche nella storia del film, è che queste due persone, per il resto della loro vita, molto probabilmente avranno sempre a che fare con la loro patologia. Ecco, diciamocelo, perché non è che torneranno mai a fare una vita. E quindi hanno bisogno di un contesto che le accudisca, le curi, le consenta loro di vivere in una condizione la più accettabile possibile, ma senza pensare che esista l'evento miracoloso che le tiri fuori e le diventa. Cioè, vivranno sempre in una situazione come quella, le protagoniste. Vivranno in vari setting assistenziali in base alle fasi della loro condizione, ma pensare che possano camminare con le loro gambe, non prendere mai più farmaci e vivere al di fuori di un contesto, tra virgolette, protetto, è molto poco verosimile. La Buni Tedeschi non tornerà mai più nella sua villa sull'Argentario e la Ramazzotti non tornerà più. Però la sua mamma. La qualità della vita della Ramazzotti, anche rispetto al rapporto col figlio, può fare dei passi avanti. Mario, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io lavoro in un reparto psichiatrico. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Parlo. Sì, lavoro in un reparto psichiatrico, si chiama SPDC, dove c'è il top della malattia psichiatrica, nel senso il livello più alto, più grave. No, e volevo dire, testimoniare che i due personaggi sono fatti benissimo. Io non mi sembra di vedere alcuni pazienti, probabilmente li hanno anche visti, alcuni pazienti che ho avuto ricoverati. La paziente che girava con l'abito da sposa ce l'ho avuta. Esattamente come la Bruni Tedeschi a un certo punto, proprio di fronte alla nuova moglie dell'ex marito, si rimette il suo abito da sposa. Non si capisce bene se lo fa perché è folle o lo fa perché è particolarmente sadica nei confronti. Beppe, cosa dici? Ma secondo me queste persone con questo tipo di personalità, la possibilità che sia una provocazione è elevata. C'è una perdita, c'è una consapevolezza di pregiudizio, quindi può fare qualunque cosa. Assolutamente. Allora, continui, Mario. No, ma anche un rifugio, un distacco. No, e sono disegnate benissimo proprio, ma nelle parole, in tutto. Quindi lei trova molto realismo. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Io volevo portare la mia esperienza perché purtroppo ho un figliolo in queste condizioni e quello che ho apprezzato in questo film è che finalmente si parla di questi problemi. Sembra che in Italia non esistano, sembra che non ci siano, sembra che siano fuori dal mondo, sembra la gente tende a dimenticarli, e nessuno presta l'attenzione dovuta, c'è effettivamente un calo di coscienza da questo punto di vista enorme. Io che vivo nella civilissima Bologna, poi qui invece ci divertiamo a farne una questione politica e organizzativa, insomma, per dimostrare all'esterno che tutto va bene, che tutto gira, che tutto a posto, che tutto qui e che tutto là. Al contrario, invece, sappiamo benissimo delle mancanze notevolissime da parte e del personale medico e del personale infermieristico e dal personale, qui da noi abbiamo le cooperative, come sapete questo è il mondo delle cooperative, che tutto sanno, tutto possono, tutto gestiscono e mai rendono conto di quello che fanno. Mi sembra che Roberto ha aggiunto la nota realistica che mancava, noi abbiamo solo accennato che è un bellissimo film, ha il grande valore di mettere le mani in una materia molto difficile da trattare, mette le mani e la racconta quanto è necessario raccontarla in un film, in una fiction. Esiste un aspetto oscuro di questa materia che i nostri ascoltatori stanno portando a luce, Giuseppe. Sì, riprendendo quello che diceva il collega del servizio diagnosi e cura poc'anzi, i personaggi sono così ben delineati, anche perché ritengo, l'ho visto nei titoli di coda del film, che Verzisi si è avvalso di alcuni consulenti, di cui ho visto il nome, che conosco personalmente e che da molti anni lavorano nelle strutture per acuti, nei servizi diagnosi e cura, nelle strutture che curano i pazienti nella fase sia di acuzie che di post-acuzie, residenziale, ambulatoriale, quindi si è avvalso della consulenza di persone, di professionisti che quotidianamente vedono questi pazienti e che penso l'abbiano aiutato a inquadrare con questa accuratezza i personaggi. Quindi Giuseppe Sansonna, c'è una documentazione, c'è un comitato scientifico, una cosa rara nei film italiani, di solito non si usa, si va per approssimazione. È vero, c'è un approfondimento molto bello. E un altro aspetto che a me ha colpito molto del personaggio di Valeria Bruni Tedeschi è la sua medicalizzazione, cioè quello di farsi psichiatra, di sostituirsi. Volevo chiedere anche a Beppe cosa ne pensa, perché è molto è l'aspetto comico, la linea comica. Lei si finge dottoressa a un certo punto verso un'altra pazienza. Queste persone che hanno anche alcuni aspetti di tipo istrionico nella... quella una volta si chiamava l'istituzione totale, il vecchio manicomio, ma nelle strutture che hanno la caratteristica di luoghi chiusi in cui si crea questo universo con dei ruoli ben definiti, quello che puoi e quello che non puoi fare, chi te lo ricorda e chi ha il potere di limitare la tua libertà, ecco, in quelle situazioni questi personaggi sono capaci di queste uscite proprio perché la violazione delle regole e lo scambio del ruolo fanno parte di quel loro capacità di andare oltre le righe che è caratteristico della patologia, non lo farebbe mai per tanti motivi Micaela Ramazzotti, mentre Valeria Bruni Tedeschi è proprio il suo personaggio porsi nel ruolo di colei la quale gestisce il potere, lo spazio, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, i farmaci che ti do, dove ti metto a dormire, con chi ti faccio stare, se ti do il permesso per uscire. Ecco, questo impossessarsi del potere all'interno di un'istituzione totale come è quel tipo di residenza assistita è caratteristico di questi personaggi e di questo tipo di patologia. Anche perché significa avere in mano le chiavi della felicità di un essere umano, decidendo con chi dormi, dove stai, che farmaci prendi, quanto esci, quanto non puoi uscire. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Avete tolto il divano per mettere quelle sedie orribili, poi sto letto che svolazza, sembra di essere in un alberghetto della Mauritius. Beatrice, cosa hai combinato? Mi ha chiamato Fiamma. Devo andare dagli Albertini a Bolger, oppure anche da Ippolita, che sarebbe stata felice di vedermi, o al peggio a Sabaudia del Malagoma. Poi mi sono detta, ma perché devo andare ospite? Io la casa ce l'ho. Certo. Ti dice, sei contenta? Come stai? Sei ferita? È saltato la terapia ieri, lo sai che è pericoloso? Sono un graffiettino, guarda, ah, no? Sì, sì. Avrei bisogno di un bel bagno caldo, di una dormitina e poi sono tranquilla. Ecco. Il drink di benvenuto. Sì. Oh. Perché tu piombi così all'improvviso, Beatrice? Che meraviglia. Comunque io, guarda, vado nella stanzetta della dependance sul giardino, non vi do fastidio. Magari ci ha messo le cose dei bambini, mi dispiace, scusami. Mi è la mascella attesa. No, sto bene. Stai bene. Questa è una scena epica. Valeria Bruni Tedeschi all'improvviso piomba nella villa dell'ex marito, dove c'era un simpatico aperitivo al tramonto, tutti vestiti di bianco, con i bambini, con la nuova moglie, con la servitù. Entra la matta ex padrona, che pensano tutti chiusa dentro la struttura e quindi non più in grado di nuocere, nuovamente a piede libero. Giuseppe Sansone, è bella questa scena. Sì, c'è un'irruzione mattatoriale, cioè questo suo avvocato, ex marito, che è completamente in balia. Quindi c'è una assoggettarsi anche nonostante la malattia, lei conserva un potere seduttivo, addirittura poi appunto ci finirà di nuovo a letto e se ne andrà via dicendo che noia questa alta società e ritorna alla vita on the road, a road movie, che la riconduce poi a Michele da Ramazzotti. Quindi c'è anche uno spaccato, dicevo prima, di quanto sia speculare e faticosa la ricerca anche proprio della felicità stessa, che poi è il motivo trainante del film, al di là delle loro patologie. Quando lei domanda cos'è la felicità, dice: un bicchiere di cristallo, una tovaglia di Fiandra, certo, un buon vino, questa è la felicità. E aveva ragione dal suo punto di vista, chi potrebbe dire il contrario, Giuseppe? No, assolutamente, infatti anche la scelta dei dialoghi e dei contenuti è assolutamente pertinente al modello di personaggio. Questa cura attenta dei dettagli, secondo me, è un merito che va riconosciuto a Rita Dirzi. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non ho visto il film, però ecco, voglio intanto spezzare una lancia per Valeria Bruni Tedeschi, che nel passato ho visto come attrice ed è appunto veramente brava, molto brava. Ho chiamato perché io ho avuto un'esperienza personale con una relazione con una donna con la quale ho convissuto per molto tempo, una relazione di 6 anni, e che finì a causa della sua ciclotimia, che però non si manifestò se non negli ultimi periodi, e che io sinceramente non fui in grado di sostenere, perché quindi la relazione... Ecco, cerchi di farmi capire meglio. Lei dice che questa donna francese somiglia tanto, anche se non ha visto il film, al personaggio che ha sentito raccontare questa mattina. Quali erano gli aspetti di diversità che lei notava, di evoluzione verso un territorio che non era quello che frequentavate normalmente assieme? Ma in verità io credo che lei forse non avesse manifestato appieno la malattia se non appunto nell'ultimo periodo. E io ho conosciuto una persona brillante, geniale, con delle capacità logiche e delle connessioni assolutamente sorprendenti, quindi fuori dal comune, e anche una persona estremamente tranquilla e molto genuina, molto vera, che riusciva a essere al di là di qualsiasi formalismo e ipocrisia. Lei ha detto, diciamo, però a un certo punto non ce l'ho più fatta, cos'è accaduto? No, è accaduto che ha avuto proprio una crisi formidabile, una crisi molto molto forte, e io mi sono ritrovato di fronte, io anche alla famiglia, a una persona che era quella che noi avevamo visto qualche volta descritta negli ospedali psichiatrici, proprio una trasformazione incredibile, incredibile e appunto anche insostenibile. Poi ci fu un periodo nel quale insieme alla famiglia, un periodo di mesi, si cercò di riproporre di ricomporre la situazione, e quello che mi sorprese è che, nonostante fosse di una buonissima famiglia, il padre medico, presidente di un ordine dei medici, la famiglia tendeva a non vedere questo fatto, a quasi volerselo negare, mentre e alla fine però fu affidata alle cure di un medico, di una psichiatra francese di Parigi, insomma, di dove lei veniva, molto bravo, e cominciò ad assumere i farmaci, il litio e i regolatori di umore. E poi io so di una persona che nel tempo, diciamo, fu ricondotta a uno stato, diciamo, di quasi di regolarità, diciamo, morale, ma sicuramente non credo sia potuto. Comunque la relazione per lei era già finita, ecco. La relazione è esplosa, ma non per motivi interni alla relazione, ovviamente, ma per motivi esterni, quindi fu scioccante per lei, che però non si rendeva conto, forse per me sicuramente lo fu, perché nel tempo stesso io ero carnefice, vittima di questa situazione, perché la interrompevo, però con grande sofferenza e anche con sensi di colpa che ancora purtroppo tutt'oggi mantengo, perché mi sarebbe piaciuto poter dire a questa persona, ma io poi non l'ho più contattata, che in verità non avevo un giudizio negativo di lei. Fermo là, Massimo, fermo là. Giuseppe Neri, esiste questo problema chiara la relazione con persone che poi hanno questo problema, che non si manifesta subito, che improvvisamente nel tempo devono mutare una persona e diventa un'altra persona. È giusto che Massimo abbia sensi di colpa? Secondo me no. Lui è una persona, secondo me, che dipinge un quadro assolutamente realistico e dice delle cose vere che io ho visto su persone nel suo ruolo, il marito per la moglie per il marito. I cicli di queste patologie sono variabili. Può essere che io incontri una persona nella fase in cui alcuni aspetti di subecitamento sono molto molto sotto traccia e per parecchi mesi, forse per un anno e mezzo, io non colgo che delle piccole cose che mi sembrano delle bizzarrie di comportamento. Poi improvvisamente può esplodere questa cosa e lui dice delle cose verissime che sottoscrivo, e che cioè la incontenibilità di qualcosa che lui capisce che lei non fa consapevolmente è tale da non rendere più gestibile il rapporto. Quindi capisco sia la situazione sia la rottura, sia mi rendo conto, per l'autenticità che percepisco dei legami che si era creato, del suo senso di colpa che si protrae nel tempo. Ines, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Concludo con lei, ci ha telefonato, sì. Cosa voleva dirci? Io volevo semplicemente porre l'accento sulla questione della formazione degli educatori in queste strutture. Infatti attualmente sta alla Camera una legge a nome Vanna Iori, proprio perché soltanto coloro che hanno gli studi appropriati possano comunque sia intervenire a favore delle cure di queste persone. Sarebbe auspicabile, non vedremmo più poi quegli episodi brutti di cui ci rendiamo conto soltanto quando appaiono le immagini telecamere nascoste della polizia dei carabinieri. Allora, Giuseppe Sanzon, in conclusione, proprio per te, contrapponiamo questi due punti di vista, quello iperrealistico e terrificante delle telecamere nascoste dei carabinieri che appaiono in televisione quando vediamo menare i pazienti, e queste letture cinematografiche. No, ma tornando al discorso complessivo dell'Italia, c'è una forte speranza, c'è l'individualità, la scelta individuale di aderire al proprio mestiere in maniera etica e profonda. Queste realtà esistono, io ne sono testimone nella mia piccola esperienza, quindi. E il cinema con Virzì, con questo film, ha effettivamente evidenziato e messo in luce una situazione di solito rimossa. Ecco, la rimozione è il grande problema, la rimozione è lo stigma, quello che viene chiamato lo stigma nel lessico più appropriato. Io dico soltanto, viva la faccia di un film che ci permette di discutere con persone competenti, visto che tocca in maniera appropriata alcuni aspetti difficilmente dicibili. Quando il cinema racconta l'indicibile, è perlomeno vicino a aver colpito il proprio bersaglio. Grazie Giuseppe Neri, grazie Giuseppe Sanzon.